la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, 16, 30, primi 46 secondi. Siamo in diretta qui dagli studi di Milano e come sempre Oscar Giannino vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. E vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, a cui oltre a tutte le altre osservazioni, critiche, domande, io rispondo a tutti. Segnalare la vostra disponibilità per continuare le puntate che abbiamo cominciato la scorsa settimana, a partire dalla settimana scorsa. Nel frattempo ne abbiamo fatte diverse, anche oggi è una di questa serie, con interventi vostri in cui raccontate o perché ve ne siete andati o avete provato a farlo per avere migliori occasioni o di formazione o di lavoro in altri paesi rispetto all'Italia, oppure perché al contrario o lo avete fatto e siete tornati perché siete rimasti delusi, o anche al contrario perché pensate che non sia giusto farlo, per così dire, e cioè perché a fronte di amici, colleghi, familiari che lo hanno fatto, pur non nascondendovi le difficoltà italiane che sono molto forti per chi è giovane in termini di reddito, patrimonio, accesso al mercato del lavoro, accesso al credito, accesso alla possibilità di un'abitazione per mettere su famiglia, costi dei figli e così via, dite no, io piuttosto che andarmene resto qua, e quindi scrivete e continuiamo, perché l'intenzione è quella di tentare di mettere questo tema un pochino più all'attenzione di quanti oramai non capiti, tutti lo danno per scontato e sono un po' rassegnati, per così dire. Allora, in particolare la puntata di oggi, dopo che le critiche che ho anche raccolto da parte di alcuni di voi che hanno scritto, dicono vabbè, ma non è che ci puoi presentare solo fenomeni. Alcuni di voi hanno pensato che le storie raccontate fino a questo momento siano, per così dire, scelte per l'eccezionalità del successo andando fuori. Non è così, le abbiamo scelte del tutto casualmente e sono moltissime quelle di chi ci ha scritto andando via, chi perché aveva fatto un anno di liceo prima, come avete sentito, chi perché ha fatto una specializzazione universitaria, chi perché invece aveva conseguito qui un titolo ma è andato poi a fare tutt'altro, cominciando da fare il barista. Avete sentito di tutti e tre i tipi, e però vi hanno descritto le storie che non ho affatto scelto io per farvi vedere fuori dai confini italiani l'Eden, assolutamente no. Allora, però, poiché parecchi di voi hanno scritto in questi termini, oggi per così dire riequilibro, perché come vi ho detto dall'inizio, programmaticamente noi vogliamo storie di tutti i tipi sulle difficoltà italiane, non solo di chi dice all'estero ce la si fa e quindi prendete la valigia, no. E quindi nella puntata di oggi ci sono due storie di ordine diverso, cioè di chi è fuori ma dice se non è tutto sto rose e fiori in questa prima parte, e di chi nella seconda dice sì, probabilmente qui ci sono un fracco di guai, però la mia, anzi come sentirete la nostra, in questo caso è una coppia, decisione è quella, per queste e queste, queste ragioni, di fare la scelta di restare qua. Ecco, così, ma senza nascondersi i problemi, perché poi il punto vero è riflettere sui problemi del nostro paese. Allora, in questa prima parte della trasmissione io ringrazio di averci scritto e essersi resero disponibile, e con noi Giulio Porreca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Da dove si trova in questo momento? In realtà sono in ufficio a Berlino. A Berlino. Allora, brevissima storia. Da che parte d'Italia proviene, che formazione ha seguito e com'è che è finito a Berlino? Allora, io vengo da Roma, mi sono laureato in architettura. Durante gli anni di università ho fatto un'esperienza Erasmus di quasi un anno a Monaco di Baviera. Lì ho cominciato a studiare un po' il tedesco, poi sono tornato in Italia per laurearmi e fare l'esame di Stato, quindi dopo essermi iscritto all'albo, in realtà quasi subito ho avuto l'opportunità di vincere un'altra borsa della Comunità Europea che si chiama Leonardo per un praticantato, sì. Qui a Berlino, presso uno studio professionale. Ma lei quando è andato questo... nell'anno di Erasmus in Germania conosceva già i rudimenti del tedesco scolastico oppure ha cominciato da zero? Quasi da zero, direi. Quindi ecco, sono tornato dalla Germania e in realtà le lezioni all'università erano in inglese, quindi per questo non c'erano problemi. Sì. Tornando dalla Germania ho continuato da me un po' a approfondire la lingua e poi ho preso anche un certificato al Goethe Institute e poi ho deciso, ho fatto quest'altra esperienza. Questa esperienza quindi è stata prima un tirocinio e poi ho diciamo accettato la prima offerta che mi è capitata nel mio ambito. Aspetti un secondo ancora, questo ci serve a dare dei segnali a chi ci ascolta, siano genitori o siano studenti, per capire che tipo di scelta fare per gli interessati all'esperienza Erasmus. Lei ha scelto in quel caso l'Erasmus in Germania perché aveva già un'idea, una sensazione che la Germania le interessasse per il post università oppure no? Sì, sì, sicuramente, cioè comunque in generale il mondo dell'edilizia tedesca è rinomato anche semplicemente per le pubblicazioni che arrivano da questo paese, le riviste, e si sa insomma che il mercato immobiliare... Ecco, però insomma le era chiaro, a differenza magari di molti giovani che si iscrivono alle facoltà, che per gli architetti in Italia non era dura, era durissima, partendo, a meno che uno non ha uno studio in famiglia, una cosa eccetera, gli era già chiaro. Esattamente, sì, mi era diventato chiaro col tempo. Ecco, questo lo sottolineo ogni volta, perché guardate che l'orientamento, cari genitori e cari studenti all'università, ci dovete pensare da soli, l'orientamento rispetto poi alle condizioni dell'offerta nel mercato del lavoro italiano è fondamentale, perché troppe volte qua la sensazione che dice no, la mia vocazione, sì, la tua vocazione, poi studi anni e poi finirai, come è capitato a Confartigianato a Palermo 2 giorni fa, a magari metterti in fila per un posto di lustrascarpe. Quindi il problema è che lei era chiaro e quindi si è mosso di conseguenza. Allora, a quel punto, dopo la borsa di studio europea Leonardo, c'è l'esperienza a quel punto del praticantato, cioè dell'inserimento diretto in vita professionale in uno studio di architettura a Berlino. Esattamente, l'esperienza è stata abbastanza positiva, purtroppo poi non ho avuto nessuna offerta di lavoro in quello studio, quindi dopo 6 mesi ho accettato la prima che mi è stata proposta, e non era a Berlino, quindi mi sono mosso e sono andato. Le è stata proposta perché l'aveva cercata, l'hai cercata tu? Ho cercato io, mi sono proposto e quindi l'offerta era, insomma, le condizioni erano ottime, impensabili per i miei coetanei in Italia, e quindi sono andato. Quando dici impensabili significa dal punto di vista retributivo oppure retributivo e anche contrattuale? Di che tipo? Sì, entrambi, sia retributivo che contrattuale in generale. Comunque era un contratto a tempo determinato, il primo di 2 anni, poi dopo è stato fatto dopo 1 anno un contratto a tempo indeterminato. E dov'era lo studio? Era a Friburgo. Però in realtà l'esperienza non è stata positiva, né dal punto di vista professionale né, diciamo, personale, perché non è stata particolarmente formativa, non mi venivano date particolari responsabilità, probabilmente ero sicuramente ancora limitato con la lingua, poi ecco, il mondo con il quale mi devo confrontare di maestranze, di piccole imprese, magari si esprimevano in dialetto, quindi è stato complicato. Parliamoci chiaro, tranne che per chi lavora nel settore finanziario, pensare di un inserimento professionale in Germania se non si ha un buon tedesco è un'illusione, è vero o no? In realtà io conosco anche, ho conosciuto anche molti altri stranieri, italiani e non, che sono in Germania e lavorano qui senza grossi problemi, senza sapere solo la con l'inglese? Lingua. Praticamente sì. Sembra strano, sì, ma è sembra strano, però vale anche, cioè è un, negli altri settori, perché nella finanza è di sicuro così, ne conosco un mucchio, insomma è notoriamente così, ma per esempio tu ci hai detto che nel tuo campo, nei cantieri, no. Sì, poi certo, ovvio, poi dipende dalla posizione che uno ricopre, è ovvio che se si tratta solo di concorsi e progettazione preliminare all'interno di un ufficio, uno potrebbe anche parlare solo in inglese, se poi si fa direzione lavori, progettazione esecutiva... E ovviamente poi, questa è la mia opinione, uno sul mercato non è poi così competitivo non sapendo la lingua locale, rimane comunque legato a posti, secondo me, subalterni. E quindi però a Friburgo sei stato parecchio, perché hai detto 2 anni più 1, no? No, a Friburgo sono rimasto sì 1 anno e mezzo in realtà, alla fine. Ho deciso di andarmene perché appunto l'esperienza non era buona e sono tornato qui a Berlino, dove ho trovato un'altra offerta. È stato un po' più difficile perché, ecco, questa forse è anche l'informazione importante, Berlino è una città relativamente povera per il resto della Germania, la disoccupazione è più alta che a Milano, per dire, quindi è sicuramente una città dove vale la pena vivere se si è giovani, se si è interessato, se si è interessati insomma al movimento culturale e via dicendo, ma ecco, come opportunità lavorative sono molto più basse. Però è una scelta che molti fanno perché è la città meno tedesca della Germania, molto viva e ci sono moltissimi stranieri e ragazzi che vengono da altri paesi. È stata anche quella che mi ha mosso a tornare qui, il pensiero mi ha mosso a tornare qui. Però tu scrivi a un certo punto, dici sì, detto tutto questo e fatti i dovuti riconoscimenti al modello Deutschland, che insomma la mia idea è tornare o no? Sì, la mia idea è tornare perché cioè io non ho mai deciso di venire qui per restare in realtà. La mia voleva essere un'esperienza temporanea, ma non ho mai messo su carta vado in Germania a vivere. Se mi fossi veramente sentito integrato e non so, ecco, esaltato delle condizioni di vita. Questo è importante. Cosa vuol dire? In cosa non ti senti integrato e non ti piacciono le condizioni di vita tedesche? Ma è un fatto, credo, di rapporti umani, di contatti umani, che sono cose di cui non si può parlare forse in 30 secondi. Diciamo che, ma questo lo dicono in molti, moltissimi, tutte le persone con cui mi confronto, straniere, ma anche tedeschi stessi, che comunque allacciare dei rapporti è comunque difficile. E, con i locali intendo, perché io per esempio tutte le mie amicizie sono altri stranieri. Con i locali è molto difficile in generale. Ma c'è ancora un pregiudizio verso gli italiani? Secondo me sì, loro non lo ammetterebbero mai. Diciamo che siamo uno di quei per loro di quei popoli che possono ancora subire i loro cliché o così battutine. Non a livello dei polacchi che sono in testa alle barzellette dei tedeschi, ma insomma c'è ancora un pregiudizio. Esattamente. Ma non è quello, insomma, non è che cioè, offendersi per certe cose è un po' ridicolo, non è sicuramente quello il problema. Come ho scritto anche nella mail, direi che lo stile di vita poi non risponde a quello che è il potenziale tenore di vita, secondo me, in Germania. Cioè, io credo che quando qualcuno fa la scelta di andare all'estero per migliorare la propria condizione, il proprio livello di benessere anche, vuole anche godere di questo livello di benessere. I tedeschi sono risparmiosi, cioè tranne che in pochissime grandi città, nella cittadina media tedesca alle 6 del pomeriggio diventa il deserto. Muore. Eh sì, è così, certo. È così, effettivamente ogni è così. Ogni domenica è Natale qui, è tutto chiuso, non succede nulla. Assolutamente, è così, risparmiano molto per così dire, però è il loro stile di vita questo, è l'impostazione culturale. È il loro stile di vita, certo, poi probabilmente, queste ovviamente sono considerazioni personali e del tutto secondarie rispetto alla necessità di trovare un lavoro, una sistemazione, perché da quel punto di vista è un paese invidiabile, uno ha tutte le tutele del caso e è veramente supportato poi dallo Stato. Ecco, cioè non è neanche l'inferno che viene descritto da molti in Italia, tipo il paese in cui ci sono solo i mini jobs, i poveri, eccetera, eccetera, no? Cioè se uno viene qui con una laurea, ha una conoscenza discreta della lingua e sa muoversi, il problema non esiste, secondo me. Quanto tempo ti sei dato per tornare? Diciamo entro la fine dell'estate. Ah, quindi siamo proprio prossimi ormai. Sì, dai, diciamo è la speranza. Ma ce l'hai già l'indicazione poi di dove lavorativamente? No, il mio è diciamo un progetto un po' forse ambizioso, perché voglio appoggiarmi a questo ufficio dove sto lavorando per provare a prendere degli incarichi. Ah. Per provare a partecipare a bandi per opere pubbliche, bandi a partecipazione aperta sopra soglia europea. Sopra soglia europea. Esattamente, dato che in Italia appunto questi bandi prendono dei requisiti, a mio parere, a volte assurdi, già, soprattutto quando si basano su fatturato personale dell'ufficio, io con il mio ufficio potrei rispondere a questi requisiti e quindi perché non approfittarne? E poi, quindi comunque l'esperienza, che io mi auguro funzioni e abbia successo in Italia, non è andata male. Però, insomma, voglio dire, come vedete, Giulio non ha nascosto la sì, soddisfazione dal punto di vista professionale, le occasioni si trovano, il tempo in tempi anche rapidi, Però insomma, problemi ci sono e stiamo parlando della Germania, un paese su cui lo vedo gli sms che molti di voi non sono stupiti, però al netto della propaganda antitedesca che un po' intossica l'Italia, perché non è che i tedeschi hanno la colpa dei guai che abbiamo fatto noi a casa nostra. Però a me interessava moltissimo sottoporvi la storia di Giulio, che ringrazio. Adesso andiamo al traffico e un'altra coppia di italiani subito dopo che gli dice perché non ce ne andiamo. Traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta in questa serie Via dall'Italia. Oggi prima la storia di chi è andato in Germania ma tornerà prestissimo. Soddisfatto, però anche senza nascondere che dal punto di vista della qualità della vita non si è trovato particolarmente bene, e anzi ha toccato con mano anche la persistenza di un pregiudizio verso gli italiani, proprio culturale. Invece la storia qua di Marco e insieme alla moglie Irene. Marco ha scritto una bellissima lettera e poi ha scritto anche Irene dicendo perché io non me ne vado pur non nascondendomi che qua siamo pieni di guai. Grazie intanto di aver scritto, Marco. Sei solo o c'è anche Irene? Buonasera, salve. No, allora guardi, io ero in viaggio di ritorno dal lavoro. So che diciamo il suo staff ha provato anche a chiamare mia moglie. Adesso vediamo, non so se riesce. Intanto tu se ci sei. Allora, sì. Sei della classe 1980, hai scritto. Esatto. Cresciuto in un paese del Basso Lazio. Sì, Arpino, il paese di Cicerone. Il paese di Cicerone, l'Arpinata per così dire. E mi pare di capire che tu, ma anche tua moglie, in realtà su questa radice territoriale, insomma, ci avete creduto, ecco, no? Ci credete ancora? Sì, assolutamente, perché comunque crediamo nel senso di comunità, nello stare insieme, soprattutto rimanere con i familiari e non togliere loro, ad esempio, il piacere di stare con i loro nipoti. Io non riesco a immaginare quella che può essere, ad esempio, insomma, la sofferenza magari di nonni che vedono andare via i loro nipoti perché vanno, seguono la famiglia, o che magari li vedono raramente perché appunto i loro figli sono stati costretti, comunque hanno scelto di andare via. Aspetta che abbiamo pescato anche Irene, non state insieme, ma intanto salutiamo anche Irene. Grazie di essere collegata con noi, Irene. Sì, buonasera a tutti. Allora, proseguo un secondo con Marco per far capire ai nostri ascoltatori qual è stato il tuo iter di formazione. Tu hai studiato la Sapienza di Roma, ti sei laureato con, insomma, in tempo, quindi non eri né un perdigiorno, eccetera, eccetera. Ti sei laureato in ingegneria, no? Sì, informatica. Esatto, informatica. E hai iniziato nel mondo della consulenza a lavorare. Problemi particolari tra la laurea e trovare un posto di lavoro? Assolutamente no, questa è una cosa che non ho approfondito nella mail, però calcoli che io ho iniziato praticamente a lavorare una settimana prima della laurea, perché comunque a quei tempi c'era una richiesta altissima di figure come la mia, e praticamente io dopo un brevissimo periodo di inserimento sono stato assunto con un contratto a tempo indeterminato a 26 anni, che comunque per me tutt'oggi rimane un grande risultato. Ah no, scherziamo, poi rispetto alla media italiana è un record, quindi vuol dire che non solo il settore tirava, ma insomma voglio dire anche la laurea l'avevi fatta bene. Se non che nella crisi, ohimè, cosa succede? Ma di fatto il mondo della consulenza è un mondo dove almeno in Italia si tende a comunque a direi quasi a sfruttare, nel senso che gli orari di lavoro sono abbastanza pressanti e di solito si fa fare il lavoro di due persone ad una persona sola, cosa che invece all'estero l'idea di straordinario viene vista quasi come un qualcosa, no, di dannoso, perché vuol dire che il lavoro non è organizzato. No, nella consulenza si viene spremuti come peggio che limoni, è così. Esatto, esatto. Sia in quella gestionale che in quella finanziaria, nelle consulting. In tutti i contesti. Esattamente. Esatto, sì. Però nell'ottica appunto di avere, nel frattempo, quindi mia moglie diciamo progrediva anche lei nella sua carriera accademica, e poi insomma, come le scrivo nella mail, anche lei ha avuto la sua esperienza all'estero, in Germania, con ottimi risultati, con un dottorato, e nel frattempo iniziamo a maturare il desiderio di mettere su famiglia, ma è chiaro che con quei tempi e con non era compatibile Assolutamente no, quindi la mia fortuna è stata quella di approdare, diciamo, ad un luogo di lavoro più tranquillo, lo definirei un posto fisso quasi, perché comunque è un lavoro, diciamo, con non grandi pretese, che ovviamente per me è un lavoro importante perché mi dà stabilità e che cerco di fare al meglio, che però ovviamente mi ha fatto un po' rallentare in quello che era il mio sviluppo professionale, perché ovviamente non c'era motivo di aggiornamenti continui o comunque di progredire ulteriormente dal punto di vista professionale. Contemporaneamente mia moglie, sempre nell'ottica di costruire una famiglia, ha da subito scartato l'ipotesi di rimanere in Germania e tornando ha provato l'esperienza nell'industria, però di fatto le hanno fatto capire che per allora avere, aspetta un po', perché poi tu descrivi tu la vita professionale, sì, comunque fai pendolare, ti fai un bel po' di chilometri, sì, tutti i giorni, perché vai e vieni da Roma, perché poi avete deciso, coerenza alla vostra scelta appunto di fare mettere su famiglia e crescere i vostri figli fuori dal caos di Roma. Date giudizio su Roma, che sono chiari, cioè non è che dite Roma è meglio del mondo, Roma è inefficiente, è un posto dove è a posto per questo, però noi ci siamo organizzati per rimanere dove stiamo. Fammi andare un secondo da Irene, però. Come no? Irene, allora, tu il tuo percorso con tanto di tappa in Germania, non insoddisfacente o soddisfacente? Soddisfacente. Sì. Però avevi già maturato nella tua testa, adesso ovviamente chiedertelo di fronte al marito collegato è una scorrettezza totale, mi rendo conto, però eri già dell'idea tornavi in Italia per questo progetto comune oppure no? Sì, io sono partita consapevole che sarei tornata a breve, ero assolutamente consapevole, però quella era un'opportunità di formazione e quindi io l'ho sfruttata perché ne avevo la possibilità, ho avuto il giusto canale per però andare. Io ti devo chiedere una cosa, cioè siccome insegni, no? Sì. Ecco, cioè per tornare in Italia, che è il paese al mondo avanzato con la maggior quantità, erano oltre 250.000 i precari della scuola, la riforma della buona scuola nasce praticamente perché obbligati con la pistola alla tempia dall'Europa a metterli in regola entro qualche anno, perché si è visto che non ce la si fa in un anno solo e anzi neanche nel secondo ce la faremo, ma comunque una prima leva e poi il secondo concorso. E però tu non lo sapevi, ci sei venuta malgrado questo, sei tornata? Io sono tornata perché sapevo che comunque avrei voluto vivere in Italia prima di tutto, sì, e poi avrei cercato di tornare ad Arpino. Ora ho lavorato, ho avuto diciamo la fortuna di poter lavorare un periodo in azienda vicino Roma e quindi ancora di più ho maturato l'idea che fosse necessario per me, se volevo mettere su famiglia, allontanarmi da Roma, perché diciamo la tranquillità con cui ho vissuto io era la stessa che vorreste per i vostri figli, certo. Quindi ho lasciato. No, però voglio dire, questo tipo di ragionamento, quello di Irene e di Marco, come vedete, è un ragionamento che poi per moltissimi italiani conta, difficile, ma che però voi avete tenuto fermo malgrado il fatto che la tua esperienza lì non fosse insoddisfacente, ma soddisfacente, malgrado che tornando qua sapevi i problemi che avresti trovato prima di una messa in ruolo ipotetica, non si sa quando, nella scuola italiana. Allo stesso modo Marco ci ha descritto che certo il posto fisso gli dà la stabilità, certo è meno soddisfacente, è meno prospettive di carriera dal punto di vista retributivo, però per voi quello che contava era una cosa che grazie al lavoro si fa, perché lavorare bisogna, perché altrimenti la famiglia, se non si lavora in due in Italia, non si mette in piedi. Ma però era un progetto che qui, e anzi dove avete scelto, si poteva fare, altrove no. Torno un secondo da Marco, ma ti faccio una domanda proprio col cuore in mano. Far crescere i figli in paesi magari diversi dalla nostra tradizione, diverso dall'ambito che è quello nella cui radice vi riconoscete, ma in cui ci sono più possibilità, perché per voi ha un'importanza minore piuttosto che invece la scelta che avete fatto? Ma guardi, allora io so già che ai miei figli darò, assolutamente non metterò limiti quando loro saranno in grado di fare perfetto, scelte. Perfetto, questa è la risposta. Andare dove vogliono. Però la mia infanzia, che per me è quella, diciamo, quell'immagine che ho della mia infanzia, volevo che fosse anche la loro, anche perché le dico solo questa cosa, nel secolo scorso mio nonno è partito, è andato in Venezuela esattamente per un motivo quasi simile a quello per cui tanti oggi lasciano l'Italia. Sì, certo. E sinceramente le sue storie di sofferenza, di mancanza, di lontananza, sinceramente volevo comunque evitarle a me stesso e comunque magari anche ai miei figli, quindi in questa cosa abbiamo creduto. Io ho la fortuna insomma, di avere a fianco una moglie che ha condiviso questo mio, mio progetto con me da subito. No, anche perché io voglio salutarvi e ringraziarvi per questa testimonianza che ci avete dato, leggendo proprio l'ultima frase della lettera di Irene. Ecco, scrive Irene: quando sento che siamo costretti ad andare all'estero per trovare qualcosa da fare, o siamo costretti a essere pendolari per offrire una vita migliore alle nostre famiglie, mi arrabbio molto contro tutto questo. Io che faccio parte, scrive Irene, di una generazione che non ha avuto spazio in questo paese e che se ne avesse avuto solo un po' di più lo avrebbe migliorato. Un po' mi commuovo pure, perché io penso che Irene e Marco, per i loro figli, fanno bene a fare come fanno. Io non condivido la loro scelta, ma quando è così profondamente motivata e diventa una coerenza di vita, beh, io mi levo il cappello. Continuate su Radio 4 e appuntamento domani dalle 10 alle 12 per parlare di Intesa, generali, del risparmio, di cosa ci aspetta se Trump fa davvero quello che dice. Domani dalle 10 alle 12 ci sentiamo in diretta a Conti della Belva.